Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Lenuccia, una partigiana del sud. Progetto e regia Aniello Mallardo. Tratto dal libro La guerra di mamma di Gaetano Morgese e dal film Le quattro giornate di Napoli di Nanni Loi, con Luigi Credendino e Maddalena Stornaiuolo. Effetti sonori Salvatore Fiore. Ma io faccio con te! O fai con me, io sono di incivile! Signora, scusate, e poi non stavate più dietro? No, signor Rover, ma ci ha visto proprio un pistoggio, si vede troppo in uglia. Signor, è inutile che Luca, di non mettere paura nessuno. Ma voi non ci capite, approfittate con mezzo caso con due guagliù. E non lascia perdere, la signora, ma va aggressiva, è pure bella massiccia che ti ci fa male a tutti. No, signor, non ci vedi casi di giatta, ci vedi casi di una bella sciaccione in carne. È un complimento, signor. Toto, era pure questo. Mi raccomando, si fa con brighi. Come dice tu? Sposta. Scusa, Davide Alciolo, signor. Che lei, ma che lei, ma tutti una volta, eh? Ma io mi muoio un po' passando qua. Sì, sta zitto, ma... Davide Alciolo, ci fa qualche passione. Toto, mi raccomando, che noi cerchiamo di fare di stare un po' più là. Sì. E poi passo pure un po' per aria. Ma non aveva rispettato la fine, tu? Quando ci va, ci va. Perché dimmi qualcosa a ricerlo? Io? Io sei un coraggio. E che ti viene a ridere, mo? Niente. Sto pensando alla prima volta che mi metto il cassetto. E beh? Com'è la fissa di noi? È che c'è voluto la guerra, non lo fa capire. Pazzi, pazzi tu. Intanto nessuno si immaginava che facevamo questa fine, la guerra era lontana. Ma tu dai, vuoi la prima volta che suonai la sì? Ecco, ma no. E là inizia giugno. Gli avevamo tutto quanto buoncio buoncio rintorno ricordo. Paremo che stiamo andando a far scampagnare. E te credi che era solo una simulazione? E mica ci avevano a bombardare veramente. Pareva una precauzione esagerata, tanto la guerra era lontana. E invece mo stiamo più cadinti che rinde a casa nostra. Che o c'è la minaccia che ammesta, non puntata, ci fai scimba male. Ma quanti bombardamento è stato? E chi ho stato? E un bombardo il cuore, facendo respirare. Mamma mia, ma non ci sono, ci sono gli americani, i tedeschi, gli inglesi, ci sono. Dodo, ma che cani, che ne proprio sono tutte stesse. Ma noi, la guerra non era fornuta. Ma la domanda è che le stanno in cima. Come? Ah, ma non stiamo giù che i tedeschi, ma gli inglesi e gli americani. Scatto fuscio e piglio primera. Sì, ma dove stanno questi nuovi alleati? Che da me mi pare che non è cambiato niente. Anzi, che è a Maretti invece è a Nanza. Ma tu che dici? Quello è il colonnello Scholl, che è una persona seria, ha pigliato il comando assoluto della città di Napoli. Basta stare calmi e sereni, essere ragionevoli. A questi recis urnute e mazziate, ma non ha capito proprio niente. Niente. Oh, che una zuffurna! Non sto senza ombrello! Giana, Giana! Niente. Si è mai diventata proprio una piccola comunità sotterranea. Aspetterà di me, tanto prima o dopo era da dormire. E poi ci sarà una casa, una famiglia, i figli. E già la picciarella si è fatta rossa. Ma il momento va a seggere, non aspetterà di mani. Tanto prima avrò paura da perdere. Qua invece, la famiglia crede che ci attesta per tutta la vita, si è proprio costruita una casa. Lulietta a dolore non riesce a dormire. Lo cucinino che non serve a niente, che un mangiare ci sta. Una specie d'armadia, a tu ci mettere sempre gli stessi vestiti. E un bagno con una tendina per mandare un po' di intimità. Ui, ui! Un po' di crianza, lascia questo a sto povero di gelino, non lo dico. Se è dormito a letto lo faccio pure. Le persone, quando dormono, sono indifese. Non sanno nascondere, sono piccerite. Guardate, quando in lunga, in mani spaccate dalla fatica, è come su bianchi i capelli. Chissà che sta sonnando, Forse oggi quanto passato, di fatica, quella che avrà vista e che avrà fatto. Ui, perciò, un po' di educazione, vieni qua. Si dà piatto, vieni. Ma di creature che ci stanno, Totò? Loro non sanno niente, io. Pazienti, chiami, ridi, fammi capriccio. Sono tutto che sti creature. E mani e facce le sporche, i vestiti stracciati. Tengono sempre fame, poverilla. Loro non sanno che era quella. Che è così bella staccare con tutte le compagnie, le verbi, ce li. Ce ne vuoi dare un po' con lo zio Totò? Totò! Fosse caduto di accapaldè! Tu lo panavo con creatura! E non mi credo, c'è oggi di questo! Oh, un puntata! Un puntata! Che? Che ti non ti sento buono? Non ce la faccio più! Che? Ma c'è un bagno! E trattieni, non la può tornare a casa, eh? Trattieni, sto proprio su frenna! Ma qua, allora sei nato sul gente, fa una cosa, pare da chi l'angolilla! Zitto, ma che posa, ci vuole una gente a nato! E dottore, se che è una cosa naturale a far pipì, pare dall'angolilla! Ehi, basta, ma è passato, ma buco, sto buco! È passato? Sì, sto buco! Lenny! Lenny, non lo potete fare, io! Vicemo, Lenny, basta! Basta, Lenny! Zitto! Sono fornuto e bombo e potremmo tornare a casa. Mamma mia, non ce la facevi più, meno male. Oh, ferma, dove vai? Perché? Proprio di mascina. Perché? Ma come, perché sono 10 a sera. E beh? Ma come mi avete scordato? Che lo c'è sto copri fuoco e stiamo a dire fino alle 8 a sera. Non potremmo mascina. Mamma mia, io come faccio? C'è sta sempre l'angolino. Ma non mi dici un parolo, ma anche stai in tanto oggi ci mangiamo un bello piatto di spaghetti che non ero finita. Grazie, Lelou. Viaga, si tengo promiente. Ah, Toto, tu stai qua, eh? Oggi dai fondità, facciamo un po' che però finta. Meglio, mi sto con un po' in disposto. Allora, oggi ci stanno in stato di una furna. E così? Cadenina a casa tua. Totò, l'ospite come mio pesce, lo potrei più orno puzza! Già, lì, non puoi dire, dai, io sono carino, ma mangiamo pure la galera una pulita! E poi tu sai, mangi con me la piccioluzza! Boia! Allora, dopo che preparano un piatto speciale solo per te! Ah! Oh, Raul, sei contenta? E che? È fornuta la miseria! Però diamo allora, perché quella là si aspetta sempre Pappaniello! Pappaniello? Oh, figlio, piccolino, è una concetta! Una concetta? Una concetta! La tua casa sua è a via Marina e mo sta insieme a noi! Vabbè, allora lo metto all'occhio. No! Perché? Chi lo posto è una donna? E non mi chiarire, lo sta solo. Ha pensato la sua famiglia per colpire un bombardamento e mostra insieme a noi. Non c'è problema, tua donna sa da. No! E perché? Chi lo posto mi? Piuttosto è pronto, mi sta servendo la fame. Ah, è pronto, è pronto. Che l'ha da cuocere almeno 6 ore. E poi ma gira, gira, gira. Ma giraga. Ma diciamo una cosa, le nuvole, le misatre, le chiule. Come una bella racchia rossa e rossa. Oh, il cipolle, ci stanno il cipolle. Bella rosolata, rosolata. E un basilico? Ma non ha finito a dormire in stanza? Sì, sì. E mi raccomando, non discuto un po' di sale. E che sono scemi. Fammi. È pronto? A me doppia pozione! Sì, pure 3 piatti. Tiè! Ah! Carrube bollite! Ma come di pasta? Ah, di pasta, prendeci! Sì, ma ha diventato peggio di maiale! No! Tu ti sbagli, Lelou! Tu ti sbagli! Caoi! C'è sta una grande tavola per i giardini e robe tutti speci! Toto, perci il cervello! No, perché che la fama fa brutti scherzi. Ma non guardava quell'occhio, lei non ha uso un po' di fantasia. Non mi sento il profumo dall'aria. No. La fantasia, lei non ha fantasia. Che c'è stanno pianti, maccaroni con roba bella arraggiata. E tatam, un ruoto forno con un bello capretta, così alla patana, ci sono rosmarini e cavoli, che c'è stanno una grande mozzarella, cavana, che allora su cosa... Si squaglia in bocca, non piezzi mani croccante, non bicchiere vino da fasagna e dolci in furna, non prendo un babà. Non c'è un bicchiere, pistacchiere, una tazzolina di caffè, che andava non ci andava mai mancato. E dici, questo è proprio un pranzo reale. Toto, Gli faccio tutto quello che dici tu, mi impegno. Bravo. Ma sembra che rubo, venga. No, non ha fame, non fatica, sono in capo. Sciò, se non c'è niente, ti passa. Toto, Ha fame, fammi. La fantasia. Aiutami a sparecchiare, oi. La fantasia. Ci spiego tu a Rosario che la fantasia crea la guerra. Perché che sta? Che sta? A ieri, a vicere, è venuto vicino a me. Mi ha abbracciato e mi ha detto... Lelou. Ma morimmo tutto quanto. No, ma che dici? E non mi crea quello. Niente, non ti preoccupare. Ma quando si muore? Quando una diventa vecchia. E io sono vecchia. No, tu sei piccirella. E mamma, papà, nemmeno. E Anna, Titina, Dora, Giovanna, i scienzi. E tu? Non me la sta solo, nemmeno. Popola via due. E l'ha già stretto in dei bracci miei e ci ha già puntato una favola per fare un mio. E ce l'hanno pochi di pace. Ma tu vedi un po' che si non sta mandando qui a ricciuli da casa sua. Ma parla ora, tra la scarpa e ti spara. Ma da fornito, Toto. Non so pochi hanno altro così. Guarda che c'era. Chi voglia uscire, voglia stare in mezzo a gente, voglia ridere. Ma manco uscire, Toto. Quanti volte ho già desiderato pure io fare l'attrice. Non poteva imitare i gesti e i smorfi del dito. E poi mi cosevo pure i vestiti come mi portavo nell'osso. Ehi, Mi concedete questo ballo? Se proprio insistete! Lasciatelo che vi dica che sono felice e che vi sono riconoscente. Vi prego, non mi ringraziate! Perché? Perché non so in coscienza se lo merito! Ma se voi sapeste, Emma, come sono sicuro adesso che posso dedicarvi tutta la vita per rendervi felice! Io non vi ho mai parlato di quanto io abbia atteso, Emma, e di quanto in questa lunga attesa io mi sia stata vicina e vi abbia osservata. Ma se mi avete osservato, avrete notato che fra me e... Ho capito anche questo, sì. E allora, avete anche capito che accettando di essere vostra moglie ho solo obbedito a mio padre e a mia madre? Non è molto, ma è già un principio. Più in là obbedirete all'impulso di essere la più cara delle mogli. Non ci contate troppo? Non te l'aspettare, diciamolo, sono un grande attore. E chi non poteva immaginare, adoro tu dire un futuro assicurato. Osaggio. Però, a me è un azzardo e sempre a me è un azzardo. Ma è un azzardo, che tieni giù i miei, è solo bella. Sembra l'etni, che la bellezza è importante. Per me l'umanità si divide in belli e brutti. E bello quando fa tutto quello che vuole, e brutti invece. Per fortuna, io sono bella. E io sono brutta. Grazie, Renu. A te, Ocino, dai tutto un capo. È bello, Ocino, ma tanto ti fa scordare tutti i problemi. Sì, è bello, Ocino, però è bello pure a tenere una famiglia, a curare una casa, un marito. No. Toto, e chi da noi geni si metterà a cucinare cosa, a cagnare pannolina, a lavare, si dirà? No, a me mi piacciono le cose belle, belle come papà. Che la colpa è da guerra, di frammini la voglia della pazza gioia. Ma poi quando ti sei levato gli spizzi, no? Quando la frenesia è passata, in futuro non pensa a possibilità di tenere un mancino che devo bene. Boh, chissà. Ma futuro nostro è oggi, Toto. Ma non è il momento di pensare di male, ne ho mai pensato oggi. E oggi non è il tempo, amore. Io non voglio perdere manco un minuto la vita mia. Ma tu... Cioè... Io, no? Cioè tu e tu e io e tu. Tieni che simpatico capo guaglio. Sì. Papà va. Forse che stia l'ultima volta che ci vediamo, sai? La tatuata del nostro caro amico Deutschland Scholl. Tutti gli uomini dai 18 a 33 anni sanno mettere spontaneamente a disposizione dei tedeschi per affaticare i germani delle industrie belliche famose. Spontaneamente? E voglio vedere proprio che i napolitani sono presenti, voglio vedere. E mi riferito qua. Dice che Hitler era a disposizione di rendere Napoli in cenere e fango. Se vogliono pigliare l'uomo e vogliono distruggere Napoli. Che gli hai fatti male? Che hai fatto male? E tedeschi che stanno tra la di tutte le case in Napoli per sapere l'uomo. Se vanno portare la Germania a fischiava. Scusa, ma non arriva a essere una visione spontanea e volontaria? Volontaria? Volontariamente obbligatoria? No. Chi se sono presentati solo 150 vaglioni? L'altro ne aspettavano 30.000. Ma scuola sta con mio pazzo. Hai tirato a strollare la forza tutta Napoli. Oh mamma mia, come faccio? Io non voglio in Germania, la fa finta. Lei non faceva che cosa, aiuta, ma... Calma, tu ci vuoi? Ti andai a scondere fino a quando non passo per io. E a domani? Vieni qua. Uè, che è? Lasciami andare, ma ti ho tutto povero. Lenu! Chi è? So io. Che vuoi? Non è sicuro in dall'armadio, è troppo scontato. Pure lì nei film, prima posso stare guarda, ne sei in dall'armadio. Hai ragione. Tu lo fai di me? Guarda. Chiudo l'occhio, non ti preoccupare. Ma già chiudo l'occhio. Fatta il mio coraggio, vieni. Ma che può fare? Vieni. Che può fare? Vieni. No. Dai, che sai, che ci puzza. Ma metti paura, beh. Arab. Giuro, per pochi tempi da bimbo. Stato solo, più tardi ti porto pure a mangiare. Ma tu sei pazza. Io mi metto paura, che fuori fa fritti. Ti sono pure per piccere, si vede a chi ho. Arab. Quanta vizia che tieni! Scinna! parte. Ma pigliare uno su, la mobile, ma pigliare. Faccio trovata. Cos'è? Che trovata? Scin! Guarda già scendere, mo. Scin, scin. Ci vuoi che stai un po' in una scandiglia. In da foglia, ma puzzo, come la rimettere? Guarda, uomo, che scin, non fa preziosa. Chiara, chiara, che mi fai spartare la faccia in terra, chiara. Ma quanto ti faccio attacca a dita? E no, hai un'altra, una settimana, un mese, un anno, una vita, che io so. A chi? E chi sa fai, camore? È meglio che me la vado in Germania. Come it? È meglio che me la vado in Germania. No, prima. A chi? E chi sa fai? No, a roba. Prima a roba. Ah, il camore. Bravo. Stai morendo. Bom. Tu ti ne faccia gli angai angolo, l'occhio lucido, lucido. Arrabao. Ah. Lo sapevo. Che sapeva, lei non parla, parla, per piacere, non mi fa mettere paura. Mamma mia, come brucia! A me non mi pare. E quando il chiazzo rosso le tiro faccio? Il chiazzo rosso è che suo apricello, un morbillo, non so l'ingre. No! Che stellebra! Mamma mia, lo guardo, me ne presento male. Su, su, non è niente, eh? Cazzo, non è niente, cazzo, mamma mia, mamma mia. Viene del dopo, è niente da chiesto. Chissà, e che... Uè, sciò, sciò, se ci vuoi, porta a gola! Ma come la dritta soffre? Come soffre? Ti ha la mandà. Ma perché? Per far presto, muovo, non fa troppi domande! Non ne senti i tedeschi che stanno arrivando? Mamma mia, noi che facciamo? Tu stieni, dalla niente e fammi farlo! Poi, la Madonna c'è un compagno! Ave Maria, piena di grazie, Signore, con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù! Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, Signore, con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù! Santa Maria! Finalmente sei arrivato! Via, tu mio fratello, chi lo dà la lepre, ci metti più paura che ci ha messo! Ci ha messo! Via la villa! Via la villa! Voglio donare i miei ultimi giorni alla mia tenuta in Germania. Fermo, fermo, ma tu hai aspettato, non siete scordati mio fratello, aspettate un momento. Mio fratello, ti scordate. Voglio venire a Bellino con voi. Voglio... Vuole venire a Bellino, vuole venire a Bellino. Se ne sono io. Sono volata. A che storia già stanno a Germania? Mamma mia, quanti cose ha già avviato. Fammi la sta cosa da qui, hai sta brutta mano. Giovanni, mamma fa qualcosa, non potremmo stare che mano a mano. Tu li smetti contro l'armata tedesca, mo. E a mamma sta così. Zitta rassegnata mentre i tedeschi fanno i padroni rinda casa nostra. Linu, la guerra non è così film. Giovanni, la guerra non guarda faccia a nessuno. Cioè, non è uomo, non è vecchio e non è picciolino. La guerra non fa differenza. Ma la gente, senta, vera, parla, dice, lì nu. E che dice la gente? E che dice? Una giovane guaglione non si avesse preoccupato troppo della guerra. Avesse pensato a casa, a famiglia, non avesse stato troppo appresso all'uomo, se no qualcuno può pensare mai. E tu che pensi? Io? Tu non si so, o sacci che si una femmina onesta, ci mette la mano coppa o fuoco. Ma le parole corrono, lì nu. Sono pesanti e fanno una livella e una bucina. Ma che può fare? Se l'uomo non sa nascondere, c'è ma puzzano i femmini. La gente fa la parla. Signori, che volete? Non vedete che stiamo chiudendo la baracca? Qui non c'è più niente da fare. Marisciamo, ma ci serve una mano, le armi. Tutto quello che ne posso dare, la mia pistola è una ricina in bomba breda. Nient'altro. Marisciamo, andate a prese che le deserisce. No, che Hitler lo distruggerà. Sì, e io che ci posso fare? Ma come? Che potete fare? Se volete le armi dovete andare alla caserma di Salvador Rosso. Forse là tocca da cosa è rimasta. Volete? Armi, Marisha! Prego, prego, accomodatevi. Grazie. Ma che vi è successo a tutti quanti oggi? Vogliono distruggere Napoli! Tutti i napoletani a fare gli eroi. Qua stiamo saltando in aria, ma lo sapete che cosa è successo a Pico Trone? Che cosa? Ci sono dei tedeschi chiusi in una fabbrica di scarpe. Sono entrati per rubare, ma li hanno scoperti. Adesso sono bloccati dall'interno, tenuti sotto tiro da uomini armati. Ma quello che è peggio è che i tedeschi minacciano di far saltare lo stabilimento con tutte le case vicine. Chi lo fa ne sai quando morta, sono in cinque, non possono resistere a lungo. Occorre che qualcuno gli porti la rete. E ci paghi! Tanto non mi fanno fa. Ci andresti? Se mi date le armi! È una cosa pericolosa, ma vada in data. Se ci riesci torna, ti darò del 91 con le tartucce. Però mi raccomando, state d'accordo. Cosa volete? Non avvicinare, se no io sparare! Arrendetevi! Ormai non c'è più niente da fare! Soldati del Führer, non arrendere mai! Ma siete circondati, non avete via di scampo! Non importa, a noi non importa! Guardate che questi non scherzano! Noi siamo onorati di essere soldati del Führer, capito? Guardate che questi sparano! E noi fare saltare tutto stabilimento e case vicine! Ma siete sicuri? Ya! Yeah. Sicuri sicuri? Ya yeah, ya! Yeah. Guardate che questi non scherzano! Noi siamo onorati di dare nostra vita alla nostra grande Germania, ai Hitler! Spara, vuoi tu? No, non sparate, arrendere immediatamente, fare quello che vuoi volere! Bene, bene, se abbiamo bisogno di te ti chiamiamo a chiamare, non dubitare. Marisha, non vi scordate niente. Oh bene, che mi ci voglio. Ah, scusami, quello del periodo non ti permette di curare le buone maniere, buona giornata. Marisha, ma quando saluto e saluto, voi mi erano promesse di fucile. Oh veramente, siete lo promesse, devo stabilirmi, ogni promessa è un debito. Bene, bene, camerata, camerata, mi dia tutte le fucile che ci sta. Come non ci stanno i fucili? Quella mappa alla scrivania, quella arrugginito. Quello senza cartucce. Vedi altri fucili, che l'unico ne sta, porta chilo. Ma riusciai, ma che ci faccio con fucile vecchio senza cartucce? Questo abbiamo e questo vi diamo. Con tutto rispetto, ma se non fosse mai diviso che ho buttato per pigliarsi a pacca. Signorina! Potete sempre fabbricare le Molotov con le bottiglie. Ci ascolta! Un'amica! Shhh! Ma non è mica! O fascista! O fascista! O nazista! O fascista o nazista! Ma che stai facendo? Sto preparando il Molotov! E questo? Sono bombe fatte in casa! Dammi una mano! Come si fa? Io non lo so! È facile! Me l'ha spiegato un maresciallo Salvatore Rosa! Allora, se pigli una bottiglia, se regni con un po' di benzina, se metti un fazzoletto a tuorne, ta-da! La bomba è pronta! Forza, buttami in mano! Uno, due, tre! Zitto, zitto! Hai sentito qualcosa? No! A quanto stavamo? E ci sei ricordato, cominciamolo qua! Uno, due, tre! Tato! Tu come punta? Tutti notizie, devo tutti notizie! E le tesche quando passate la bombata di Tainaria! Mamma mia! E tu che dici? Non ti preoccupare, anche tuo padre si è appostato con quattro vogliono coppa da terrazza a fianco a palazzo dei Filippini, là, dei Filippini. Stanno sorvegliando la coppa, si vedono con che tedesco, fanno passare un brutto quattrone. Totò, non spicciamoci, accostiamo pure un coppa da razza. Ehi, allora. Uno, due, tre, zitto, zitto. Stanno venendo i tedeschi. Hanno spugnato Totò. E tu? Non ti preoccupare. Mi sto fermando che da me non fanno proprio niente! Ma che? Mi dà c'è un problema, se non ti passerà stato! No, fanno un messaggio lì, te ne spugna! Monte Sanità, eh? Ah, dove si trova? Di là. Toto, spicciamoci, ma ci mandare, se ma chiamare papà, tutto quanto là. Ehi, puttano, con tutte le bombe Molotov. Papà, lo tedesco vuole un lugar armato, insomma, papà non ci ha capito niente. Lo tedesco mi ha chiesto allo stevo quando la sanità. E io la cimanata che l'ha da parte, solo che io non ho poco d'ordine. Papà, mio momento, è un momento di cacciarsi tedesca. Purtroppo abbiamo trovato pochi altri, però hanno buttato una cinquantina di bombe Molotov. Mo sta mi cambi, però una mano per lui. Andate c'è cucina. Forza, vai giù. Facciamoci una rampasta si ma fatta, sti fatiente tedesca. Dopo come? Rindo vai a Roma. Lo gruppo napolitano ha salito l'autocarro tedesca. Io ce la faccio, Tutto Napoli si è rubutato. La sanità, Ovast, Salvatore Rosa, Capimonte, Ponticello, Poggio Reale. Datemi un fucile. Napoli è la città mia. Pure io ce la faccio. A Santa Teresa il gruppo napolitano ha salito l'autocarro tedesca che era diretta a Capimonte. La gente si affaccia le finestre e botte mobra la coppa a bacio in cave tedesche. E non ci mai visto andare a pulitare insieme. Che si aiutano, che vogliono fare qualcosa per tutto quanto. Questa è la guerra nostra. E vecchio, giovane, femmina e uomini. Nessuno si è tirato la rete. Vuoi generare che tu che ci fai qua? Torna subito a casa che ti fai male. Ma quale fucile? E se vuoi un fucile, ma non te ne vuoi? Vattene, generare, vattene. Gennari, io non posso stare presso a te. Che? Quando prendesci la guerra non può fa? Ma può? Vabbè, ti prometto. Però mo Gennari va a te. Gennari, io non posso stare presso a te. Ma che resta un momento? Mamma mia, che sta succedendo? Fermo, non farmi dato. Ma non, Gennari, ma ti metto Gennari, non stai qua, Gennari, Stop! capisci, non starà nato! È nata al giorno! E ancora nata! Ma ti è potuto stato stavito con il fucile a mano! Ma non potete cancellare, ha vinto! Ha mangiato una truglia a te! Che la mi fa? Accialite! La stufa mo! No! Lasciato sta! Fatto bene così. Non paro proprio un soldato della grande armata tedesca. Non fai proprio paura. Tu sur. Tremma. Come lui. E forse in questo momento stai pensando a tua mamma. Ma la famiglia è da te. E figlio. E allora va. Va. Tornate in Germania, va. Non mettere più per andare. Sta afferrando una mano, una faccia, guarda veramente rinda all'occhio, ma... 29 settembre 1953. Oggi è un giorno importante per me. Che ho passato a razza proprio 10 anni fa. La granata tedesca si è avviata vita in animi innocenti. Gennarino Capuzzo, mio cugino. Ogni anno lo stesso giorno torno a casa. Dopo a stare razza. A così mi pare non lo perdere mai. Oggi Gennarino te ne sa stesse d'attore. E forse pure stesso occhio. E per questo che t'ha chiamata Gennaro. Perché hai visto? E non a me. Perché a essa. E pensa come voleva. Io già fa, uè. Avrei pure la città mia. Pure io già fa, uè. E poi quando finisce la guerra, lì no. Chi te voglio scusare? Papà, aveva ragione mamma. Sono proprio una pazza. Lo spettacolo Lenuccia, una partigiana del Sud, progetto e regia Aniello Mallardo, tratto dal libro La guerra di mamma di Gaetano Morgese e dal film Le quattro giornate di Napoli di Nanni Loi, con Luigi Credendino e Maddalena Stornaiuolo. Effetti sonori Salvatore Fiore. Lo spettacolo Giovanni e Nori, una storia di amore e di resistenza, con Daniele Biacchessi, testo, regia, voce narrante, Marino Severini dei Gang, voce, chitarra acustica, 12 corde, Sandro Severini dei Gang, chitarra elettrica, Gaetano Liguori, pianoforte, Fabio Verdini, tastiere e fisarmonica. Che cosa significa la parola solidarietà? Significa avere uno sguardo proiettato sul mondo. Perché se ci pensate bene, senza curiosità non c'è una solidarietà. E c'è stato un tempo in cui noi eravamo solidali con tutti gli altri popoli. E un altro tempo prima, dove si poteva perdere la vita perché altri popoli potessero ancora vivere nella libertà. È il 6 febbraio del 1936. E siamo in Spagna. Il Frente Popolare vince le elezioni. Il successo della sinistra crea forti aspettative tra operai e contadini, ma provoca la reazione violenta dei settori più conservatori della società spagnola, dell'esercito, della Chiesa. Così inizia la guerra civile spagnola. Per 3 anni si combattono il governo repubblicano eletto dagli spagnoli da una parte e le forze nazionaliste guidate da Francisco Franco. E a fianco dei repubblicani arrivano i volontari delle brigate internazionali. E con loro c'è anche Giovanni Pesce. Il 17 novembre del 1936 Giovanni parte dalla stazione di Alè, insieme ad altre 20 persone giù dritti verso la battaglia, verso la guerra civile spagnola. Prima a Figueras, poi Barcellona. A Barcellona ad attendere i volontari ci sono donne, vecchi, bambini, di stazione in stazione. Una folla immensa li applaude, li saluta, offre cibo, vino, calore, passione e soprattutto impegno civile. Poi Giovanni riparte verso le tappe della sua istruzione militare e arriva ad Albacete. Albacete, un porto di mare. Laggiù miseri i braccianti del mezzogiorno d'Italia, della Croazia, delle pianure d'Ungheria e minatori tedeschi. Laggiù il professore dell'Università Sorbona di Parigi e il minatore della Grand Combe dividono una gavetta per mangiare, la paglia per dormire, un fucile per combattere. Poi Giovanni arriva a Roda per ultimare le esercitazioni. Il suo battesimo di fuoco è Boadilla de Monte, non lontano da Madrid. Boadilla de Monte. Io ci sono stato. Ci sono stato 4 mesi fa. Con il fucile strappato ad un nemico segue i compagni mentre i fascisti si ritirano a causa dell'avanzata dei francesi e intorno a Giovanni c'è la tempesta. Gli aerei fascisti che cadono giù in picchiata contro le forze repubblicane e i volontari delle brigate internazionali. E lui va avanti, sguardo fisso. Un moschetto in mano, poche munizioni, ma va avanti. Sotto la pioggia, con il sole che spacca le pietre e con il vento che gli modella la faccia. Metro dopo metro, di battaglia in battaglia, nel fango e nella polvere, con il vento contrario, con il freddo che gli entra dentro nelle ossa. Giovanni Pesce, Domenico Tomate e Ivo Faleschini. A Rio Yarama, piazzano l'Italia sulla strada verso Madrid. Sparano contro i marocchini del terzo, che avanzano a cavallo con le loro divise lucide, con le sciabole sguainate, e impediscono ai franchisti di entrare a Madrid con un anno di anticipo. E poi c'è la battaglia di Guadalajara. Sotto la pioggia, sui camion sobbalzanti del buio, il freddo indurito dal vento. Una compagnia che si mette in marcia verso Brihuega, dopo giorni di assalti, e riesce a sfondare le linee nemiche. I fascisti fuggono sotto i colpi degli aerei repubblicani. In centinaia vengono fatti prigionieri. Dopo Guadalajara, Giovanni arriva a Brunete e viene raggiunto da una pallottola alla gamba. Dopo le cure ritorna ancora giù nella mischia. Destinazione Huesca, Aragona. Battaglia difficile, dicono, ardua, impossibile. A farle è Giovanni, di nuovo colpito da scheggia al torace e alla schiena, va avanti. Ancora viene curato, poi torna ancora al fronte. Poi, una mattina presto, inizia la traversata del fiume Ebro, il grande fiume. Il pensiero grande della Spagna, il luogo in cui si divide quel mondo, da una parte la Repubblica, dall'altra la dittatura. Gli ordigni franchisti e fascisti sollevano un inferno di polvere e di pietre. Non è Apocalypse Now. Non sono gli aerei impicchiati. È qualcosa di diverso. È un fiume che divide la libertà e la democrazia, e la dittatura e il fascismo. Giovanni emerge sull'onda d'urto provocata dallo scoppio di una bomba. Viene portato all'ospedale di Barcellona. I garibaldini affrontano per settimane, senza alcuna interruzione, bombardamenti di aerei e attacchi della fanteria, in una resistenza a dir poco eroica. Sul fiume Ebro viene sterminata una generazione. Ci sono scalpellini operai, falegnami e impiegati. Quando Giovanni viene rimesso, le brigate internazionali sono sciolte. È la vittoria del fascismo, la vittoria del nazismo, è l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Thank you. Giovanni rientra in Francia e il paese è cambiato purtroppo, perché tutte le istituzioni sono state in qualche modo azzerate. E allora torna in Italia e viene arrestato dalla polizia fascista. Viene condannato dal Tribunale Speciale per la Sicurezza dello Stato e nell'estate del 40 viene trasferito al confino di Ventotene con 5 anni di condanna. Per lui, un giovane proletario italiano, emigrato in Francia, minatore, questa esperienza carceraria diventa fondamentale per tutta la formazione culturale. Perché a Ventotene Giovanni Pesce incontra Umberto Terracini, Eugenio Curiel, Camilla Ravera. Intanto la fine del regime fascista si avvicina, lenta ma inesorabile. Il 25 luglio il Gran Consiglio del Fascismo destituisce Benito Mussolini, che viene subito arrestato. Il re assume il comando supremo delle forze armate e Pietro Badoglio guida il governo militare del paese con pieni poteri. Ovunque, in tutta Italia, anche a Milano, le manifestazioni di piazza salutano la caduta del regime. E anche a Ventotene. Giovanni si imbarca il 23 agosto del 43, un lungo viaggio che lo riporta alla fine in treno nella sua visione d'acqui. Nel traffico del centro pedala sopra il suo triciclo e fischia forte alla Garibaldina. Il carico che piega le sue gambe l'ingiustizia, la vita è dura per tante di Nanni. La vita è dura per tante di Nanni. E all'alba prende il treno e c'è odore di porcile sui marciapiedi della sua pazienza. E nella testa pesano volumi di bugie, la sera studierà tante di Nanni. La sera studierà tante di Nanni. E gli anni son passati da quel giorno che i fascisti ci si son messi in 100 ad ammazzarlo. E 100 volte l'hanno ucciso, ma tu lo puoi vedere, gira per la città Dante di Nanni. Gira per la città Dante di Nanni. Sulla metropolitana che sanguinava a porte e sorrideva, su molte facce intorno c'era il dubbio e la stanchezza, ma non su quella di Dante di Nanni, ma non su quella di Dante di Nanni. Gli anni son passati da quel giorno che i fascisti ci si son messi in 100 ad ammazzarlo. 100 volte l'hanno ucciso, ma tu lo puoi vedere, gira per la città Dante di Nanni. per la città tante di anni. Sono passati da quel giorno che i fascisti ci si sono messi in cento ad ammazzarlo, e cento volte l'hanno ucciso, ma tu lo puoi vedere, gira per la città Dante di Nanni, gira per la città Dante di Nanni. A Torino Giovanni prende il nome di battaglia di Ivaldi. Il 23 dicembre del 43 la prima azione contro il maresciallo della milizia Aldo Morei. Giovanni spara con due pistole, tre colpi alla schiena e quattro alla tempia. Lo uccide, poi fugge con la sua bicicletta tra il parapiglia generale e torna alla base. Secondo colpo di mano. 2 gennaio 44. Il partigiano Andrea si accende una sigaretta, attiva la miccia con la braccia e Giovanni deposita l'ordigno sul davanzale. Antonio, un funzionario da palo, gli attende le biciclette. 3 secondi si sente forte e chiaro il boato fragoroso di una bomba. I 3 partigiani sono lontani. 3° attacco. Il 12 gennaio del 44. E Giovanni ha l'ordine di eliminare 2 ufficiali nazisti sotto i portici di Corso Vittorio Emanuele a Torino. Dal caffè di fronte escono 2 tedeschi. Giovanni li avvicina e li ammazza con 12 colpi precisi. Poi si volta. La gente fugge. Laggiù dal caffè escono altri 2 nazisti. 2 nazisti che hanno però la machine pistola in mano. Giovanni sta per sparare, ma le armi non hanno più proiettili. E allora? Gira all'angolo di via Gioberti, cambia i caricatori. Intanto i 2 tedeschi gli sono sempre addosso. Lui esce, lo scoperto, preme il grilletto e li uccide. Ne arrivano altri in corsa. Giovanni gli scarica addosso un intero caricatore. Qualcuno resta ferito. Alcuni in modo grave. Infine raggiunge la bicicletta di Antonio e si confonde nel traffico urbano come un normale torinese e torna nel suo rifugio. Un'escalation di azioni, come si direbbe, in solitaria. Questa azione in particolare gli vale, è una delle azioni che gli vale il valore militare, perché è un'azione complicato. Si arriva alla sera e la notte drammatica del 16 e del 17 maggio del 44. Dunque, c'è una stazione radio dell'Eyer che sta sul fiume Stura, che è in corso Giulio Cesare. Questa stazione radio disturba di fatto le trasmissioni di Radio Londra. Allora gli inglesi e anche il Partito Comunista chiede ai partigiani di operare, fare in modo cioè che queste trasmissioni di Radio Londra continuino ad andare avanti. Ci sono quattro partigiani: Giovanni Pesce, Giuseppe Bravin, Francesco Valentino e Dante Di Nanio. Entrano in questa cabina e disarmano nove carabinieri di guardia che sono dentro una stazione radio, ma non li uccidono. Purtroppo i carabinieri avvertono i camerati. Così dall'alto del ponte della strada per Milano, 100 tedeschi sparano contro i quattro partigiani che vengono tutti feriti. Bravin e Valentino vengono catturati e poi vengono uccisi a Torino. Dante Di Nanni è colpito da 7 proiettili al ventre, alla testa e alle gambe. Vi voglio raccontare questa storia, sapete perché? Perché siccome in questo paese ogni tanto qualcuno si dimentica. E recentemente la storia di Dante Di Nanni è stata travisata, no? Succede così, no? Siccome la gente si dimentica. È così, eh? È un attimo, eh? Uno è disattento, cazzo gli portano via la sedia, porca puttana. Uno è disattento, cazzo gli portano via il portafoglio, puttana Eva. Non è così che si fa, si gioca illegale. E si scrivono libri per poter costruire una nuova verità, che serve, non si sa a chi, cioè noi sappiamo a chi, però serve per poter ricostruire la storia. E invece la storia è andata così, perché lo dicono i libri, che non sono mai stati smentiti. Perché lo dicono le testimonianze che non sono mai state smentite? Che Giovanni Pesce porta Dante Di Nanni nella base di San Bernardino 14 in Borgo San Paolo Torino. Chiama un medico antifascista che visita Di Nanni e ordina il suo immediato ricovero in ospedale. Lascia il ragazzo, esce dalla base e va a organizzare il trasporto del ferito. Ma purtroppo poco dopo arrivano i fascisti e i nazisti avvertiti probabilmente da un deliatore. E allora Dante Di Nanni organizza la sua ultima battaglia in solitaria. 1 contro 100. 9 morti tra i fascisti e i nazisti, 17 feriti. Tutti uccisi da Dante Di Nanni in una girandola di colpi precisi. Siccome la storia è scritta dentro nei libri, e allora questa sera io vorrei, per omaggio a Giovanni Pesce, leggevi che cosa scriveva Giovanni nel suo bellissimo, straordinario libro che tutti credo hanno letto, che era Senza tregua. Adesso non c'è più niente da fare. Allora Di Nanni afferra le sbarre della ringhiera e con uno sforzo disperato si leva in piedi aspettando la raffica. Gli spari invece cessano sul tetto, nella strada, dalle finestre delle case si vedono apparire uno alla volta fascisti e tedeschi. Guardano Dante Di Nanni, che li aveva decimati e messi in fuga. Incerti e sconcertati guardano quel ragazzo coperto di sangue che li ha battuti e non sparano. Non sparano. Ed è in quell'attimo che Di Nanni si appoggia in avanti premendo il ventre alla ringhiera e saluta con il pugno alzato gridando «Viva l'Italia!» e poi si getta di schianto con le braccia aperte nella strada stretta piena di silenzio. Pedro cassi anche me quella mattina sotto una neve che imbiancava tutto. Dovevamo incontrare su in collina l'altro compagno, il fior del biondo, il brutto. E il vento era ghiacciato e per la schiena sentivamo un gran gelo da tremare. C'era un freddo, compagni, su in collina che non riuscivi neanche a respirare. E andavamo via piano e te cammina, perché veloci non si poteva andare, ma in mano teneva la carabina, ci fossero dei crucchi a cui sparare. Era della brigata il brutto su in collina, ad un incrocio forse c'era già, e insieme all'altra stampa clandestina doveva consegnarci l'unità. Ma Pedro si è fermato e stralunato, gridò compagni mi si gela il cuore, legato a tutto quel filo spinato, guardate là c'è il brutto e là che muore. E non capimmo niente di volata, tutti corremmo su per la stradina, là c'era il brutto tutto sfigurato dai pugni e calci di quegli assassini. Era scalzo, né giacca né camicia, lungo un filo alla vita e tra le mani teneva un asse di legno con la scritta «Questa è la fine di tutti i partigiani». Dopo aver maledetto e avere pianto, l'abbiamo tolto dal filo spinato. Sotto la neve compagni abbiamo giurato che avrebbero pagato tutto quanto, tutto quanto. L'abbiamo sepolto là sulla collina e sulla fossa ci ho messo un bastone. Cassio ha sparato con la carabina un saluto da tutto il battaglione. Col cuore stretto siamo tornati indietro sotto la neve, andando piano piano, piano sul ghiaccio che sembrava vetro, piano tenendo stretta l'asse in mano. Quando siamo arrivati su al comando ci hanno chiesto la stampa clandestina, Cassio mostra il cartello in una mano e Pedro indica un punto su in collina. Il cartello passò di mano in mano sotto la neve che cadeva fina. In gran silenzio ogni partigiano guardava quel bastone su in collina, su in collina, su in collina, su in collina. Thank you. Dopo la morte di Dante Di Nanni a Torino, i tedeschi fascisti conoscono il nome di battaglia di Giovanni, cioè Ivaldi. E quindi lui non può più stare in città un minuto in più, perché il nemico potrebbe arrivargli addosso da un momento all'altro. Si trasferisce a Milano, alla guida dei GAP. Nome di battaglia, Visone. E su queste vie partigiane Giovanni incrocia Onorina Brambilla. Un applauso, scusate, non a me. E alla fine di questo racconto li abbiamo fatti incontrare. E quello è l'incontro decisivo, perché non è solo la storia della resistenza, ma è anche una grande storia di uomini e di donne. Giovanni che chiama Nori e lei che diventa la sua staffetta, con un nome di battaglia semplice, Sandra, un nome semplice. Una storia che diventerà una storia d'amore e che durerà tutta la vita. Ma quelli però sono anche i mesi dei drammi, dell'atto temerario e purtroppo anche della solitudine. E Milano è anche un crocevia di spie e di delatori al servizio del nemico. La notte era chiara, la luna un grande lume, Eurialo e Niso uscirono dal campo verso il fiume. E scesero dal monte, lo zaino sulle spalle, dovevan far saltare il ponte a Serravalle. Eurialo era un fornaio e Niso uno studente, scapparono in montagna all'8 di settembre. I boschi già dormivano, ma un gufo li avvisava. C'era un posto di blocco in fondo a quella strada. Disse a Niso, asciugandosi la fronte, ci sono due tedeschi di guardia sopra il ponte. La neve era caduta e il freddo la induriva, ma aveva scarpe di feltro e nessuno li sentiva. Le sentinelle erano incantate dalla luna, fu facile sorprenderle tagliandogli la fortuna. Una di loro aveva una spilla sul mantello, Eurialo la raccolse, se la mise sul cappello. Spilla era d'argento, un'aquila imperiale splendeva nella notte più di un'aurora boreale. Fu così che lo videro i cani e gli aguzzini che volevano vendicare i camerati uccisi. e Urielo fu bloccato in mezzo a una radura. Un viso stava nascosto, coperto di paura, e Urielo circondarono coprendolo di sputo. A lungo ci giocarono come fa il gatto col topo. Quando vide l'amico legato intorno a un ramo, trafitto dai coltelli come un San Sebastiano, Niso dovette uscire, troppo era il furore, 4 ne fece fuori prima di cadere, e cadde sulla neve ai piedi dell'amico, e cadde anche la luna nel bosco insanguinato. 2 alberi fiorirono vicino al cimitero, i fiori erano rossi, sporgiavano d'inverno. La notte era chiara, la luna un grande lume, e Urielo e Niso uscirono dal campo verso il fiume, dal campo verso il fiume. C'è un signore chiamato Giovanni Iannelli, nome di battaglia Arconati, è un agente delle SS, ma i partigiani non lo sanno. È riuscito a conquistare la fiducia dei partigiani grazie a questi modi affabili, eleganti. Iannelli dispone di depositi di armi e dice lui di un gruppo pronto all'azione. Un giorno lo incontra a Milano Giovanni, ma mi sembra strano. Arconati parla ad alta voce, fa troppe domande. E Visone, i Valdi, e Luigi Longo. Cazzo vuole questo qua? Il 12 settembre del 44 Giovanni deve vedere Arconati in Piazza Argentina. Gli vuole proporre la consegna di un pacco d'armi, ma poche ore prima in via Ponzio 35, vicino alla piscina, questa è una città costellata di lapidi, noi andiamo a lavoro, passiamo, nessuno ce le spiega, nessuno ce le racconta. Fermate degli autobus, lapidi, nomi che noi non abbiamo mai conosciuto. Una città piena di lapidi. E nello stesso giorno cade in uno scontro a fuoco con i fascisti il partigiano Oliviero Conti Romeo. Quando passate da via Ponzio 35, dategli un'occhiata. Magari prendete un fiore e lo passate così, in silenzio. Poi andate a lavorare così, come un ricordo. Una storia così, lontana, di una giornata qualsiasi di lavoro di questa cazzo di città. Noi passiamo attraverso le lapidi e non ci ricordiamo. Noi passiamo attraverso la memoria della città e non la ricordiamo. Oppure facciamo finta di non ricordarla. Ma che cazzo è quello là? Tanto nessuno te lo racconterà mai. Giovanni preferisce liberare Antonio Sironi, che era stato ferito in quello scontro ed era stato ricoverato al policlinico. E le staffette Sanda e Narva vanno in Piazza Argentina. Ma l'appuntamento è una trappola. Nori viene torturata al comando dell'SS di Monza. San Vittore, poi campo di concentramento di transito di polizia di Bolzano Griesi. Un inferno. Anche lì ci sono. C'è una mia amica che ha la responsabilità di quel campo di concentramento oggi e continua a lavorare insieme ai miei amici di Nova Milanese, cercano di realizzare un grande progetto sulla memoria. Ci sono i cittadini di Bolzano che passano da campo di concentramento e se non sanno neanche che cazzo c'è dentro. Cos'è quella roba lì? Cos'è? Cos'è successo? Un campo circondato da un muro di cemento con rotoli di filo spinato dispiegati lungo i quattro lati. Baracche, prigionieri, mura, reticolati. Una brodaglia di cibo. Topi, pidocchi, scarafaggi. Anori. Numero di matricola 6087, 6087. Triangolo rosso, politici, blocco F. Nori è imprigionata nella macchina dell'orrore nazista. L'alba del 24 di aprile. Siamo qui a Milano e siamo in Piazza Castello. Giovanni Pesce incontra Franco Conti della Pirelli e gli dice: Franco, siamo alla setta finale. Siamo all'ordine dell'insurrezione. Giovanni guarda Piazza Castello e la città non è più la stessa. C'è un ragazzo che canta e che fischia mentre pedala con la sua bicicletta. E dall'altra parte ci sono uomini e donne che camminano verso i luoghi di lavoro con la testa ormai alta, che non sono più ricurvi, rassegnati. C'è odore di primavera e c'è odore di libertà. Perché tutto quello che sta per accadere a Milano non può che avvenire in primavera. E in quei minuti che sembrano eterni, Giovanni ritorna indietro. Con tutti i ricordi della sua vita, come fosse un film in bianco e nero, che sta diventando a colori. I giorni dell'infanzia passati con la famiglia a Visone, e vai, e torna indietro, l'immigrazione in Francia, il lavoro in miniera, e ancora la guerra civile in Spagna, la sconfitta, la ritirata, il ritorno in Francia, il viaggio in Italia, l'arresto, il carcere, il confino di Ventotene, la sua crescita culturale e politica, i libri che erano proibiti dal regime, che erano stati tutti letti e divorati, e poi la guerra. A Torino, a Milano, quelle notti terribili, giorni consumati a guardare il soffitto e studiare cartine topografiche delle città, quel senso di solitudine, di sconfitta, quei volti delle decine di compagni e di amici che erano stati uccisi accanto a lui in Spagna e in Italia, e ancora la paura, la rabbia, le mille azioni, i colpi di mano, la morte sfiorata di un soffio, il volto della sua nonna torturata a Monza e segregata da mesi nel campo di concentramento di Bolzano, la cui sorte conosce soltanto attraverso le lettere che rilegge la mamma di Nori. No, non c'è più tempo per i ricordi, perché Giovanni va di fretta, deve liberare l'Italia. Deve salvare gli impianti, gli stabilimenti, le fabbriche, perché il giorno dopo la liberazione il paese in ginocchio si deve mettere in moto e ricostruire una dignità che è offesa e calpestata dal fascismo. Non si può fermare. È una forza inarrestabile. È la forza della liberazione. E allora via si parte, via. Luigi Longo fa recapitare un biglietto a Pietro Secchia. C'è scritto "La va a minuti". Il comitato di liberazione dirama l'ordine dello sciopero generale il 25 aprile. Tutto deve cadere in poco tempo nelle mani dei partigiani. Edifici del governo, commissariati di polizia, istituti economici, banche, sedi direzionali, redazioni di giornali, tutto. Sono ore concitate. Il sole sorge finalmente nel giorno dei giorni. Il 25 aprile del 1945. La ribellione parte all'alba. Leo Valiani del Partito d'Azione scrive l'ordine decisivo a matita sul biglietto. Quel piccolo foglio va ad accendere tutti i fuochi dell'insurrezione di Milano in tutte le fabbriche e i quartieri delle città. Alle 8 il comitato di liberazione si riunisce e proclama l'insurrezione. Tutti i poteri civili e militari, scioglie i reparti armati fascisti, assicura il trattamento di prigionieri di guerra e quelli tedeschi. Alle 13 in punto inizia lo sciopero generale. Ci sono colonne di manifestanti che si formano ovunque. Le fabbriche milanesi sono presidiate dagli operai in armi. Sparano i cittini, sparano i fascisti dalle autocolonne in fuga, sparano i partigiani. Il 25 aprile è un giorno che vale 100 anni. Giovanni ha 100 itinerari, 100 informazioni, da ricevere e da trasmettere. Intanto Mussolini fugge via da Milano, abbandonato dagli stessi alleati. E il 30 aprile del 45 i tedeschi finalmente se ne vanno dal campo di concentramento di Bolzano. Il viaggio di ritorno di Nori verso Milano termina il 7 maggio del 45. Arriva alla stazione di Milano come se tutto fosse normale, prende il tram numero 7 e raggiunge la sua abitazione a Lambrate. Il primo abbraccio è con la sorella Wanda. Sul terrazzo di Ringhiera Nori e Wanda attendono il ritorno di Giovanni della Madre Maria dalla manifestazione dei partigiani in Piazza Duomo. Nori rivede Visore mentre sfila tranquillo nel corteo. In pochi secondi è già in strada. Visore allarga le braccia e corre veloce verso Nori. Si abbracciano, piangono, ridono e finalmente si baciano. Arrivano i gruppisti di Giovanni, gli amici, i compagni. Inizia questa grande festa perché l'incubo della guerra è finito. Riprende la loro storia di amore e di resistenza, ma questa volta in tempo di pace. Sai com'è? Sarà forse il fatto che passano gli anni, che la testa è un ricordo e non si ferma mai. Un cinema muto che ancora mi parla di eroi e di malanni, una spina dorsale che pende soltanto verso i nostri guai. Poi quei campi affollati di morti e di sangue, e gli schioppi e i colpi brucianti nel cielo sereno, con un vento scontroso, spaurito, inesperto ed esangue, con quel vento che forse avrebbe fatto di meno. Con quel vento che forse avrebbe fatto di meno. Ma ricordo non solo la guerra e il terrore, quei campi in montagna ho visto dei fiori, un miracolo assurdo che invita all'amore, e di tutti quei fiori il più bello eri tu, era la Nori. E poi il tempo di fare all'amore lo abbiamo trovato, in campagna, in città, era la giovinezza. Basta poco all'amore, nel buio un letto d'un prato. Basta poco all'amore, purché sia tenerezza. Basta poco all'amore, purché sia tenerezza. Aspettavo sul ciglio guardando le stelle, fissi gli occhi per sempre la strada in montagna. Aspettavo da sempre le notti più belle, aspettavo e arrivava la Sandra compagna. Ci son buchi nel cuore che non sai come dire. Com'è stato difficile saperti lontana, tra le mani di gente che avrei fatto morire. Prigioniera di gente che non sa chi si ama. Prigioniera di gente che non sa chi si ama. Ecco qua, ho una memoria che ormai non si tiene, che cavalca, galoppa e mi fa stare male. Ecco qua il nuovo mondo e le sue sirene, e non riesco davvero a pensarne uno uguale. Sai com'è? Sarà forse il fatto che passano gli anni, ma anche se sono morto per te, sarò sempre Giovanni. Ma anche se sono morto per te, sarò sempre Giovanni. Giovanni. Lo spettacolo Giovanni e Nori, una storia di amore e di resistenza, con Daniele Biacchessi, testo, regia, voce narrante, Marino Severini dei Gang, voce, chitarra acustica, 12 corde, Sandro Severini dei Gang, chitarra elettrica, Gaetano Liguori, pianoforte, Fabio Verdini, tastiere e fisarmonica. È il momento dell'agenda con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone! E ciao a tutti, allora tutti e tutte, buon pomeriggio. Dunque, andiamo un po' a vedere cosa ci offre Roma per questa settimana, e anche se insomma forse è meglio allontanarsi anche un po', perché Roma vuol dire anche l'intera regione, chissà, magari andiamo anche a Viterbo questa settimana per cominciare, dove il centro di produzione per la danza Twain presenta Scena Pubblica, che in realtà già in questi ultimi giorni ha iniziato la sua programmazione, questa rassegna di danza a Viterbo al Teatro dell'Unione, e andrà avanti fino al 28 giugno, quindi ne parleremo ancora. Questa settimana vedremo due performance, la prima è firmata da Loredana Parrella, la performance per Corpi Soli, e sarà in scena il 12 giugno alle ore 21, che è un'esperienza in cui è un corpo che fa suonare un musicista e un musicista che fa muovere un corpo, quindi insomma c'è un approccio sperimentale nel rapporto tra strumento e corpo. Mentre invece il 12 giugno a seguire ci sarà anche Il Bianco nel Mezzo, Reloaded, di Loris Petrillo, la coreografia che rielabora questo passo a due del proprio repertorio. E Il Bianco nel Mezzo, ci sono due amanti alla ricerca della libertà. Questo è quello che ci viene proposto da Scena Pubblica per Twain al Teatro dell'Unione di Viterbo per questa settimana. Poi un'altra rassegna che insomma ha a che vedere lateralmente con il teatro, ma ha a che vedere con la natura, con gli itinerari, con il rapporto tra l'arte e la città, è questa Alla fine della città, queste esplorazioni con la direzione artistica di Fernanda Pessolano, progetto di Piccone Zero ETS, che al municipio 15, quindi insomma da Ponte Milvio al lago di Martignano per intenderci, fino al 6 luglio porterà, diciamo, all'interno di esplorazioni particolari, itinerari, proposte artistiche, anche sportive, storiche, archeologiche, insomma, che si muoveranno un po' attorno a questo territorio. Invito per chiunque, insomma, volesse vedere qualcosa in più ad andare a vedere associazioneticonzero.it oppure camminodeivulcani.it per il programma completo, insomma, con tutti gli eventi. Io andrei ancora avanti perché 11-13 giugno in settimana andremo anche al Teatro Le Maschere, dove la rassegna Magnifiche Presenze porterà a Ringrazio Libero, attenzione, 11-12-13 giugno, a vedere questo UND, questo spettacolo firmato da Howard Barker con Laura Mazzi e la regia di Massimiliano Farau. C'è una donna in un sontuoso abito da sera che attende il suo amante davanti a un servizio da tè, e però emergono pian piano dei dettagli inquietanti. L'amante è un alto ufficiale alle prese con delle campagne antisemite e lei è un'ebrea, quindi il rapporto tra queste due persone all'interno anche di un contesto storico-politico ben definito probabilmente, insomma, ci farà scoprire delle altre situazioni interessanti, insomma. Quindi invece andiamo poi anche al mausoleo di Cecilia Metella questa settimana, precisamente il 13 di giugno, con la canzone di Teti, L'Iliade, l'amore e la guerra, la regia di Gioele Anastasi, scena Paola Balbi, Davide Bardi, due cognomi simili ma insomma vanno distinti, ed è il Festival Internazionale Storytelling, Raccontami una storia, che alla undicesima edizione fa questo percorso su muse e pellegrini. Appunto, siamo nell'iconica location del mausoleo di Cecilia Metella e questo spettacolo ci porta all'interno dell'epica classica, all'interno del poema omerico dell'Iliade, che vede Teti come una delle protagoniste, madre di Achille, che in qualche modo in maniera laterale un po', no? Segue le vicende della guerra cercando di intercedere nel rapporto tra il proprio figlio semidio e la divinità assoluta, insomma, per determinare le sorti della guerra, da un lato, più che altro le sorti del proprio figlio. Quindi la canzone di Teti, il 13 di giugno, 20:30, mausoleo di Cecilia Metella. Ultime due cose di cui ci occupiamo in questa settimana, continua e fondamentalmente conclude la rassegna e festival Inventari alla Festa del Teatro Offa, la sua 15ª edizione. Questa settimana andiamo al Teatro Basilica, questa sera ancora, per vedere tre spettacoli precisamente. Maio, di Cromo Collettivo Artistico, la regia di Ivo Randaccio, che sarà appunto in scena questa sera, una versione demo. Diciamo, siamo in una fabbrica dove operai allucinati danzano al ritmo monotono di un'invisibile catena di montaggio e una voce artificiale, questa grande madre, li guida. Ecco, quindi è uno spettacolo sul mondo del lavoro che potrebbe essere interessante soprattutto per i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Seguirà alle ore 21 in prima nazionale Cattivo, cose apparentemente trascurabili trasformate in vicende orribili, questo è appunto l'acronimo che si cela dietro questa frase: se non capisci chi è il cattivo, forse il cattivo sei tu, una parola che gli adulti usano per spiegare il male ai bambini, poi quei bambini crescono, ma siamo stati educati alla cattiveria. Il gruppo Katushka, con Antonio Careddu, Michele Puleglio e Michele Scarcella, presenta appunto questo spettacolo al Teatro Basilica. L'ultimo dei lavori di questa settimana, e ultima settimana, è Tito for Table di Matteo Prosperi, che cura la regia insieme a Paola Giallio, in scena entrambi, è in concorso questo spettacolo anche. Prepareremo una ricetta, i nostri ingredienti sono vendetta, stupro, assassinio, pazzia, amputazione, inganno e morte. Tito Andronico, la tragedia più sanguinaria di Shakespeare, dove vengono 13 assassini. Tito Fortegno, una riscrittura per un attore, uno spettacolo di teatro d'oggetti per raccontare appunto il Tito Andronico in questo modo così speciale, per chiudere appunto questo festival di Inventaria. Mentre l'ultimo degli appuntamenti a cui farò riferimento è il ritorno a Roma al Teatro Argentina del Lazarus di David Bowie e Enda Walsh fino al 15 giugno, ispirato a The Man Who Fell to Earth, l'uomo che cade sulla terra di Walter Travis. Lo spettacolo è di Walter Malosky e in scena ci saranno personaggi e attori particolarmente interessanti che conosciamo, sono Mario Battaglia, Maurizio Camilli, Giulia Mazzarino, sono molti, insomma Noemi Grasso, Maria Lombardo, Camilla Nigro, ma soprattutto Casa di Lego, che abbiamo imparato a conoscere come cantautrice, e con la rockstar degli After Hours, Manuela Agnelli, appunto nei panni del protagonista di questo spettacolo. Quindi Lazarus di Walter Malosky al Teatro Argentina fino al 15 per andare a cercare ciò che è rimasto del grande David Bowie nel nostro mondo musicale moderno. E con questo direi che abbiamo concluso. Un buon teatro a tutte e tutti. Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.